La mattina seguente, molto presto, arrivò un contadino che, vedendo l'anatrocolo imprigionato, ruppe il ghiaccio e lo liberò. Lo portò a casa sua ancora cirdolo, infreddolito, e lì la povera bestiola rinvenne al calore del cammino. I bambini volevano giocare con lui, ma lo spaventarono. Dalla paura finì dentro il secchio del latte che, rovesciandosi, si sparse per tutta la stanza. Tutti si agitavano, tutti urlavano e lui saltava di qua e di là, buttando e rompendo ogni cosa che incontrava. Se non mi diando dai pressi, se non me ne vado qui, mi ammazzano, mi boccinti! Per sua fortuna la porta era aperta e così riuscì ancora una volta a fuggire, scappando sulla neve caduta di fresco.